Penso che siano venuti tutti più o meno apposta per sentire la presentazione. La prima domanda che sorge spontanea è se ha senso parlare di punk ancora nel 2007. Insomma, uno scettico potrebbe porsi questa domanda qua, sicuramente. Beh, secondo noi sì, in primo luogo perché molte delle persone che frequentano questo posto si sono sentiti parte di questo movimento controculturale, l'hanno vissuto in prima persona nei decenni diversi, a titolo diverso, a livelli diversi, però in qualche modo l'hanno attraversato. Chi suonandoci, chi facendo colletta davanti ai centri sociali per entrare a un concerto, chi avvicinandosi alla politica con il punk, perché questo è sicuramente uno dei meriti di questo movimento, diciamo in qualche maniera pre-politico, però che ha fatto sì che molte persone si avvicinassero a delle idee di solito di stampo libertario. Beh, punk è stato qualcosa di più, sicuramente inutile dirlo qua. Qualcosa di più di un genere musicale o di una semplice moda, insomma, è stato dichiarato morto a più riprese nel corso degli anni. In realtà è semplicemente entrato a far parte della cultura cosiddetta popolare, insomma, diramandosi in mille direzioni, diciamo, nel corso del tempo. Sono nati movimenti paralleli al punk, il dark, il movimento skin, che ha questa caratteristica più popolare, più legata al sottoproletariato, appunto il dark, quella più decadente, e poi quella più politicizzata dell'anarcho-punk, dei gruppi, non so, mi vengono in mente i Crass, i Conflict, dei veri e propri collettivi politici più che dei gruppi musicali. Quindi per questi motivi ci sembra importante raccontare queste storie da parte dei protagonisti, chi l'ha vissuto, e non come al solito, cioè è stato detto e scritto tantissimo sul punk, ma sempre da parte dei giornalisti, dei sociologi, degli intellettuali e così via. Invece il merito di questo libro penso che sia proprio quello che è un libro di testimonianze, cioè raccontate in prima persona. Niente, passerei parola a Marco per presentare il libro, poi dopo non so, possiamo parlare e chiacchierare un po' sulle altre cose, sul significato stesso della controcultura che oggi si sfuma un po', cioè parlare delle controculture nell'era dell'internet diventa un po' più difficile perché, come dire, si sono abbattute un po' le frontiere, cioè la nicchia non esiste più, semmai esiste una nicchia più grossa dell'altra, che sono quelle più, diciamo, commerciali e altre nicchie che crescono, nascono dal basso. Passo il gelato a te. Se vuoi usare di solito non microfono. Uso il microfono. Ah, ok, va bene. Ma sai cos'è, Marco? È che dobbiamo registrare. Sì, stiamo registrando, quindi se non ti scazza, fai questa eccezione perché. Va bene, però stai in piedi almeno. Sì, stai come vuoi. Gesticolo, a me piace gesticolare. No, vabbè, insomma, siamo più o meno di un'età che va dai 50, qualcuno 50, io ho già 45 anni, dai 50 diciamo, anche ai più giovani, però parlare del punk a me mi annoia, lo dico subito perché ho parlato troppe volte, ho avuto la sfortuna di scrivere un libro costretto a sanguinare, che era la storia della mia vita, sostanzialmente un po' romanzata, e dal 97 ad oggi ho parlato del punk milioni di volte. E di solito a me piace raccontare cosa faccio adesso, perché è la cosa migliore quando si ha un incontro pubblico, parlare di quello in cui mi sto impegnando. Ho bisogno di bere qualcosa, acqua, birra, grazie. E sì, in realtà questo libro Lumini Punk è appena uscito e fa parte di tutta una storia del mio studio rispetto a cosa ha significato il punk in Italia e cosa ha significato il punk proprio a livello internazionale nella storia della nostra controcultura. Ecco, il punk inizialmente parte dal 77 Voglio iniziare proprio dal 77 perché siamo nel 2007, sono passati 30 anni da quel... Ah, devo premettere, per chi non mi conosce, io mi chiamo Marco Filopat. Filopat è un personaggio dei fumetti e io racconto storie. Potrebbero essere fiabe, cronache, racconti orali, non lo so, però non ho nessuno tipo di velleità intellettuale di raccontare la verità. Racconto più o meno quello che mi succede a me. In questo libro ho raccontato quello che è successo ai miei compagni di strada di allora, però non prendetele come fiabe, veramente, come fiabe, come cartoni animati, perché Filopat è un personaggio dei cartoni animati. Filopat e Patafil negli anni 70 erano due personaggi dei fumetti, alti e magri, che si muovevano tutti a stecchino, e allora da piccolo mi hanno chiamato Filopat. Ho odiato questo nome fino ai 22 anni, poi ho cominciato a comprendere quali erano le dinamiche anche identitarie che in quel periodo funzionavano parecchio, e me lo sono tenuto abbastanza volentieri. Ho messo una PH davanti. Ecco, parlavo di dinamiche identitarie, perché quello che mi frulla in questi giorni, visto che dobbiamo fare un libro come Agenzia X che si chiama Contro 68, la generazione infinita, è sollecitato anche da tutti questi dibattiti che ci sono rispetto al 1977, ho cominciato a pensare anche che nel 1977 è nato il punk, sostanzialmente. In Italia non c'erano ancora i punk nel 77. Io vado a Londra quell'estate lì, ma sono uno dei circoli giovanili del proletariato, sostanzialmente, perché avevo 15 anni e frequentavo il circolo giovanile del proletariato che sta a Baggio, vicino a casa mia, un quartiere popolare a ovest della città. Cioè, non è che facessi politica, eh? Andavo lì a farmi le canne. Questo facevo. Mia sorella faceva politica, aveva 4 anni più di me, faceva politica, però era molto più moderata sia nel comportamento che nell'atteggiamento. Eravamo una famiglia avevo due sorelle, una più piccola e l'altra più grande. La figura di mio padre non c'era quasi mai perché era il periodo della grande ristrutturazione, no? Era il periodo in cui le grandi fabbriche chiudevano e gli operai erano in mezzo alla strada a fare nuove imprese. Ecco, mio padre era uno di quelli della grande azienda che faceva 8 ore al giorno, me lo vedevo sempre. Improvvisamente, quando io ho 10-11 anni, era 74-75 le prime ristrutturazioni, mio padre inizia a fare l'imprenditore sostanzialmente di se stesso e lavora 12 ore al giorno e anche sabato e la domenica. Quindi in casa mia è molto forte il modello femminile, due sorelle e una madre. E quindi io andavo da mia sorella e lei faceva attività politica perché era dentro un movimento studentesco di già da tempo e faceva le ripetizioni ai ragazzi migranti del sud che abitavano intorno alla mia zona nelle case minime, cosiddette minime, erano praticamente dei ghetti. Ecco, dentro a un ghetto così c'era questo centro giovanile del proletariato, ante litteram ai centri sociali, prima dei centri sociali, che faceva questi corsi per questa gente qua, e intorno all'attività politica, che io non capivo molto bene, andava una serie di proletari, come ero io, sottoproletari, che venivano anche loro dalle case minime, a farsi le canne, perché eravamo troppo giovani, ci facevano crescere i capelli e così via. Io venivo in una scuola, che era il 10° istituto tecnico per chimici, di Piazzale Stupari, ci vicino a Piazzale Lotto, che dove c'era il 6 politico, le lezioni erano di tipo universitario, era sempre in autogestione, occupazione, e lo sport preferito era quello di organizzare gli scontri di piazza. Sostanzialmente era per me un vero e proprio Luna Park la scuola. Così, anche perché non ci stavo troppo dentro, nella mia famiglia sono così molto femminile, invece un mondo che era diversissimo da quello che vivevo nella mia famiglia, quindi mi ha spinto a buttarmi fuori in qualche modo. Ecco, tutto questo discorso io lo faccio perché il 77 è stato un anno importantissimo anche in Italia, oltre per il fatto che a livello internazionale stava nascendo il punk, 76 77, quella data lì, che i punk non c'erano ancora, ma c'erano ad esempio gli indiani metropolitani. E le parole d'ordine dei 77ini erano quelle che poi leggiamo, abbiamo letto tutti, qualcuno lo sa, sulla rivista Attraverso, che usciva a Bologna, fatta da Bifo, ed erano il soggetto desiderante, il rifiuto del lavoro e quello di non stare troppo a ascoltare leader, diciamo così, o i leader erano in qualche modo attaccati. Io ho scritto un libro, La banda Bellini, di cui parlo le cronache di questo servizio d'ordine più forte forse che ha visto a Milano, che erano anche loro proletari, che riuscivano in qualche modo a organizzarsi. Nel 76 Andrea Bellini incomincia a non capirci più niente. Infatti la sconfitta militare del banda Bellini avviene l'8 dicembre del 1976, quando i circoli giovanili del proletariato, guidati da quei dementi di Mucciaccia e Company del Santa Marta, ma con dietro i cordoni ancora stretti nella tipica contrapposizione di una volta, con i cordoni quindi della banda Bellini, che proteggeva tutto il corteo indietro. Lì c'è la sconfitta, la polizia per la prima volta riesce a superare i cordoni, anche i cordoni della banda Bellini, anche perché subiscono due attacchi in contemporanea da via Carducci e da via Vincenzo Monti, e quindi sono praticamente costretti ad arretrare prima e poi a sciogliersi dopo, a causa di qualche molotov che arriva da dietro, che adesso vi manda in panico completamente anche il tentativo loro di attaccare. Comunque, voglio dire, nel 1976-77 succede che una persona come Andrea Bellini, che era il generale più decorato della piazza, subisce due sconfitte. Una, quella militare che abbiamo visto, e quella precedente nel Parco Lambro agosto 76, immortalato nelle immagini bellissime di Alberto Grifi, di Parco Lambro di Alberto Grifi. Ecco, lì la banda Bellini non riesce nemmeno a tenere più quella massa di persone. Quella massa di persone erano quelli che si chiamavano gli indiani metropolitani, quelli che venivano dal circolo giovanile del proletariato, quelli che venivano dal sottoproletariato, che i circoli giovanili del proletariato riuscivano a coinvolgere per la prima volta veramente, che non era come il 68, che c'erano solo le avanguardie studentesche che riuscivano a capire qualcosa di politica. Nel 77 c'è veramente un mondo che sta cambiando, forse anche perché in Italia il punk non riusciva ad arrivare. Noi siamo sempre stati, adesso con le nuove tecnologie non è più tanto così, però per tutti gli anni 70 e anche parte degli anni 80 si capisce poi perché i punk vedono in avanti, perché i contatti internazionali per loro diventano importanti, come d'altronde tutte le controculture, ma col punk ancora più forte. Siamo bloccati dalle Alpi sostanzialmente, da un confine geografico, e l'altro mentale, che è più la patria del Papa, quindi il cattolicesimo è bello forte e certe venti dal nord Europa fanno sempre fatica ad arrivare. E nel 77, che non c'era internet, i punk ancora in Italia non c'erano, ma in qualche modo io penso, ma è solo una fiaba forse, che quelli erano già punk negli anni nel 77. E questo perché un sacco di gente si è trovata nella mia condizione di allora, cioè con un padre che lavorava in una fabbrica e questa fabbrica stava per chiudersi, stava cambiando il modello produttivo, dalla fabbrica grande, la Ford, la Fiat qui in Italia, si passava alla fabbrica sul territorio. La Alfa Romeo aveva allora, aveva all'inizio degli anni 70 22.000 dipendenti, alla fine, negli anni 80-81, ne ha soltanto 6.000, quindi immaginatevi soltanto per l'Alfa Romeo, che era una delle fabbriche più grosse di Milano, che adesso non c'è neanche più. Per questo i punk gridano no future, perché non ce l'hanno più il futuro. La realtà è questa, non c'è più futuro. In tutto questo, il problema grosso è stato che il movimento, chiamiamolo così, spero che qualcuno possa capire cosa intendo per la parola movimento, è stato soggiogato per tutti gli anni Ottanta da coloro che avevano fatto sostanzialmente il 68. Io proprio ieri ho visto un articolo, forse l'ho portato, spero di averlo portato, un articolo sul giornale. C'era Eugenio Finardi che parlava. Spero che ce l'ho. Non mi ricordo se l'ho portato a casa. Sì, ce l'ho, vai. No, l'ho portato. Insomma, questo giornale qua. Un'intervista a Eugenio Finardi che racconta del Parco Lambro, di quello che stavamo parlando. Però la cosa interessante era una dichiarazione di D'Alema, di Massimo D'Alema, che fa rispetto, io non so, volete sentire parlare del punk magari voi, io finisco un attimo, poi magari ci sono le domande e mi riporto sul punk, scusate, soprattutto per magari più giovani. Allora, Massimo D'Alema a Repubblica il 22 febbraio 1977 dichiarava: così parlano i nuovi barbani. Ah no, aspetta, no. Vedeva il movimento del 77 composto da, tra virgolette, squadristi, freaks, estremisti tradizionali, indiani democristiani e corporativi, sì, e corporativi impegnati a difendere il proprio status piccolo borghese. Questo diceva, no? Allora, siccome Bellini, che è, cioè, mio carissimo amico, io oltre ad averci lavorato, gli ho detto: secondo me tu la pensavi così anche tu, perché era la verità. Andrea Bellini la pensava così. Cioè, allora, se qualcuno ha letto la banda Bellini sa che nel 1974, lì per la storia di 73 di Pinochet, la banda Bellini si scontra fisicamente e vince con il a Torino, durante un comizio di Amendola. C'è il servizio d'ordine della FIGC, allora capitanata proprio da Massimo D'Alema, che difende il palco. La banda Bellini in forza d'urto, portandosi dietro tutto il corteo di lotta continua, soprattutto quindi romani, padovani, tutti quanti, sfonda, c'è un corpo a corpo proprio tra D'Alema e Bellini, che nel libro c'è scritto, anche se non avevo scritto che era D'Alema, perché non so, non era sicuro che fosse lui, ma mi sa che è molto reticente stato Bellini, tutti lo sanno. Vabbè, comunque c'è stato questo scontro fisico tra la banda Bellini e la FIGC, e solo 5 anni dopo Andrea Bellini, bene o male, ha questa posizione. Questa posizione è dovuta al fatto anche che gli anni 70 comunque sono stati anni straordinari, e soprattutto nelle sue cose straordinarie sono state tappate dentro uno scrigno, gli anni di piombo, il materiale proprio più duro che ci sia. E in realtà Bellini, D'Alema nel 73 si scontrano, nel 77 sono, non proprio con quei termini, sulle stesse posizioni. Comunque quello che è successo nel 1976 con quello scontro, quando vi ho detto che hanno tirato delle molotov da dietro, in effetti erano dei ragazzi che venivano dalla buona borghesia milanese, uno fra tutti, tanto per ricordare e fare un nome, Marco Barbone. Un altro, tanto per fare un altro nome, visto che ho voglia proprio di farlo, e se qualcuno... Jacopo Fo. Questi erano due della marea di gente che veniva dai circoli dei giovanili del proletariato, che erano tanti, ma proprio tanti. Bellini, poveraccio, nella sua sincerità non li capiva più, lui aveva dei parametri altri, che erano quelli leninisti, quelli completamente legati a un tipo di lotta padrone contro mondo del lavoro, capitale lavoro. Nel 77 le cose saltano completamente, perché cambia il modello produttivo, cazzo. E col modello produttivo cambia anche ciò che poi Primo Moroni diceva, le forze del lavoro che stanno arrivando in una fase aurorale, stavano per rinascere, un'altra cosa diversa, Lordadoro diceva questo, più o meno. Noi non sapevamo un cazzo, io continuavo lì che mi facevo le canne in a Baggio, davanti al mio circo giornalista che mi ha parlato, e non ne sapevo un cazzo di sta storia. E per fortuna sono andato a Londra, perché, boh, perché, che cazzo ne so, mia sorella era preoccupata perché tra le canne poi iniziavano a farmi anfetamina, poi la scuola mia era successo un po' di casino perché era arrivato il 78, perché poi parliamo del 77, il 77 finisce a settembre, ottobre, ma sono successe un sacco di cose nel 77. E io insomma nel 78 poi venne arrestato Moro, rapito Moro, la mia scuola cambia da così a così, io non ci sto più dentro, mia sorella è preoccupata, un suo amico va a Londra in autostop, un fricchettone di 5-6 anni più di me, e io mi aggrego e vado a Londra. Questo è stato. E a Londra ho visto tutto un altro mondo. Innanzitutto ho visto che i miei amici che prima ci facevamo le canne lì in casermetta erano più moderni di tutti gli altri. Alla fine ho visto un po' questa cosa, perché cioè quando io andavo in casermetta, mi ricordo c'erano le riunioni, però era un linguaggio che io non capivo, avevo 15 anni, anche se era veramente affascinante. Quindi c'è stata questa doppia illuminazione. Io ho visto che nel circo giovanile del proletariato facevano delle cose belle, affascinanti, anche per me, ma non capivo il linguaggio. E poi sono andato a Londra e invece ho capito il linguaggio. Mi è successo questa cosa qua a me. E io, vabbè, poi sono tornato a Milano e la casermetta era stata sgomberata. I quadri dirigenti del circolo di giovani proletariato, che dirigenti si può pensare così, erano stati arrestati, due o tre, Rosario tra cui, mio amico di mia sorella, e quasi tutti gli altri erano diventati tossici, quindi veramente andavo all'oratorio o tra i tossici o l'eroina, cioè per me ritornato da Londra proprio non avevo questa possibilità altra, insomma. Per fortuna insomma mi sono tagliato i capelli e ho conosciuto un altro mondo, e lì era difficile trovare per me le informazioni sul punk. Le uniche che potevo trovare erano tramite alcuni punk milanesi o presunti tali, e uno di loro l'ho fatto scrivere qua, Tiberio, che erano già stati a Londra perché comunque erano stati in treno, avevano avuto la possibilità dai propri genitori, erano un pochino più ricchi insomma, e quindi loro smerciavano, sapevano già l'inglese, e io andavo a prendere da loro i primi dischi dei Ramones e dei Sex Pistols. Così è iniziata per me. Però, quando io faccio adesso dei ragionamenti su 77, mi viene in mente tutta questa questione, e l'Italia chiusa dal Papa e dalle Alpi, e gli anni 70 pesantemente ideologizzati, forse da quelli che avevano fatto 68, ma non certo quelli che hanno fatto 77, anche perché al giorno d'oggi chi ha fatto 77 conta poco. Chi ha fatto 68 conta tanto. Tante volte non si spiega mai perché questa storia qua. Quindi pesantemente ideologizzati, il 77, in realtà in Italia perché poi andiamo sempre a guardare quello che cazzo stava succedendo, sempre dentro il nostro buco del culo di taglietta. Però il punk era una roba molto più grande. Il punk, c'è un bellissimo libro per chi ama il punk, io lo amo, la sua storia, che si chiama Please Kill Me, qualcuno spero che l'abbia letto, che è tutta la storia del punk narrata dagli stessi protagonisti, con piccoli brani tratti da interviste e quant'altro, fatto benissimo, e racconta già il punk agli albori. Lui fa risalire più o meno la scena punk addirittura da Lou Reed, però diciamola dai Ramones, insomma, dai Ramones, che erano quattro ragazzi delinquenti, perché poi se andate a leggere quest'altro libro che è di Didi Ramones, che era veramente un delinquente, forse aveva ucciso, lui non lo dice, ma forse lo fa capire, che prima di entrare in una band a suonare lui era di una gang invece di quelle toste, insomma, e anche gli altri tre venivano da quella situazione, anche se non era proprio sottoproletariato, era lì al limite tra la microcriminalità e la grande criminalità, per intenderci. E questi qua hanno la fortuna di vivere a New York, perché se avevano la sfiga di vivere a Quarto Giaro non sarebbero mai stati niente, forse sarebbero stati degli indiani metropolitani, forse sarebbero andati a Parco Lambro e forse si sarebbero fatte le pere subito dopo. I Ramones invece non è successo così, anche se le pere se le sono fatte lo stesso. Comunque hanno spaccato l'immaginario di quel periodo, i Ramones. E come l'hanno spaccato? Perché sono arrivati nell'Lower East Side, che è il quartiere un po' come ci sono in tutte le grandi città del mondo, è il quartiere degli alternativi, insomma, Dropout, poi la grande tradizione, no? Il ticinese comunque è un quartiere che è gentrification adesso, proprio colonizzato, tutto quanto, ma regge, ha i suoi anticorpi, non si sa perché cazzo, il ticinese regge. Ci sono ancora dei capisaldi, dei posti dove poter andare a mangiare, posti dove incontri un sacco di gente, e il Lower East Side era questo. Per tradizione, se voi vi spiego perché, perché il Lower East Side era il posto dove si incontravano tutte le etnie anche, in qualche modo, perché erano tutti dropout, i più matti della città andavano a finire lì. Ma questo dagli anni 40, forse da prima, io non lo so. Arrivo fino agli anni 40, però poi tutti gli anni 50, gli anni 60, partono i beat di lì, no? C'era ad esempio un gruppo straordinario di quel periodo, si chiamavano Fugs, che sono un gruppo basilare della storia delle controculture mondiali, no? E comunque anche Ginsberg, Barrocks andava lì stesso, soprattutto Kiro, che erano tutti più o meno in quella zona lì, per parlare delle mie personali percorse. Poi c'era ad esempio John Peel, il grande cantautore che cantava per strada io voglio la marijuana già dal 59. È un quartiere particolare. Lì 68 non era arrivato, insomma non è che c'erano queste rigide regole, no? I Ramones arrivarono lì e iniziarono a guardare i concerti nei posti, quello che stava succedendo. E gli capitavano spesso di andare al Mercer Art a vedere i New York Dolls, che non è che fossero un grande gruppo, era un gruppo di drag queen sostanzialmente, che suonava in qualche modo. Loro l'avevano visto, e c'è il cantante Joy, che è uno che vuole esibirsi, faceva già il pittore, vuole cantare, cioè quegli altri due pazzi che vogliono suonare, tentare di suonare, mettono insieme una band e nessuno gli dice che quella band non dovrebbe suonare perché loro devono fare politica alla sessantottina maniera, nessuno glielo dice, anzi sono aperte gli spazi per questi quattro ragazzi del Queens, vanno a suonare al CBGB's, che era stato scoperto prima da Patti Smith, e fanno un concerto di 12 minuti per quattro pezzi e lo ripetono, e sotto la gente si diverte perché è una sorta di performance anche, no? Una roba che fanno così da pazzi tutto quanto. Ecco, da lì parte quello che si può definire, almeno quello che il libro Please Kill Me finisce il germe del punk. E siamo nel 74. In Italia ci metteranno 3 anni ad arrivare. Perché, come abbiamo visto, ci sono le Alpi, c'è il Papa e c'è il 68. No, c'è il 68. I 68 sono stati, a mio parere, questo, a me spiace che il candidato Sarkozy alla destra all'Eliseo sta facendo una battaglia contro i 68 in Francia, mi spiace, però sinceramente anche qui in Italia non se ne può più. Hanno in mano tutte le leve del potere dall'inizio alla fine e sono gli stessi che hanno in qualche modo, il mio amico Giancarlo, quello con cui ho fatto la mostra, lo dice sempre, si sono genuflessi a ciò che prima attaccavano. Genuflessi. Sono tutti convinti che ci sia stata una grande sconfitta in una fantomatica lotta di classe che è avvenuta negli anni 60, negli anni 70, e quindi da sconfitti leggono il mondo e non possono sopportare, non possono buttare giù il groppo duro del 77, non so come dire, non è digeribile il 77 per loro, non possono riuscire a digerirlo. Io comunque parlo da punk, perché nel 77 ero appena stato a Londra, alla fine, anzi non ero ancora stato a Londra, sono partito nel 78 io, a 16 anni, e ci ho messo un anno a capire che si stava distruggendo tutto, e qui non c'era la possibilità di avere un CBGBs per suonare. È stata una generazione che con No Future ha tentato di uscire fuori, perché No Future che poi aveva gridato nel 76 Rotten, era lo stesso No Future di questi quattro delinquenti che andavano all'Over Side, la stessa cosa, anche questo qui, in questo caso questo libro lo dice chiaramente. Lo spettacolo, il mondo dello spettacolo era un'altra cosa una volta. Loro lo stavano completamente demolendo, come d'altronde anche i Pistols lo volevano demolire, questo cazzo di palco del rock and roll, questa centralità che c'è dovunque, del palcoscenico. La prima cosa che i punk hanno messo in discussione è stata proprio la questione della centralità. Al virus, quando faccio un salto in avanti, tanto... magari ci sono delle domande, posso andare da un'altra parte. E al virus, quando c'erano 200 persone, lui che c'è stato un sacco di volte lo sa, c'erano più o meno 196 persone che erano giunte al palco, 4 che suonavano ad altre 196 persone che a loro volta sarebbero salite poi. C'è un mio amico che fa skateboard che... quando gli abbia fatto una domanda al pubblico, ma tu cosa ne pensi del tuo pubblico, perché fa anche video, videomaker, no? E lui ha risposto così: no, ma guarda, io sono uno skater, pubblico non mai avuto, io se vedo una rampa, una spike, mi butto giù e poi vedo cosa fa l'altro, cosa fa l'amico che viene dopo. È una bellissima metafora questa che mi ha fatto, perché in realtà era così, il punk era un po' così. E tutti lo sanno, anche Ramones erano così, c'erano quelle le drag queen che poi parla lui, ma parla anche Plisskinny, che ballavano sotto il primo concerto a CBGB's dei Ramones, erano le New York Dolls, erano Johnny Thunders, erano Jerry Nolan, erano loro, era sempre la stessa gente. Ecco, questo qui il nucleo fondamentale del primo punk è stato proprio quello. Quello di mettere in discussione le dinamiche della centralità dell'organizzazione, diciamo così, anche se sto entrando troppo in termini tecnici, però era quello, era mettere in discussione. I 77 facevano le autoriduzioni, soprattutto i concerti. Qui, sempre in questo articolo, lo diceva povero Finardi, cioè è diventato poi un arancione, non so cosa cazzo è diventato lui, e dice qui proprio è a Biura, e dice delle stronzate clamorose, però dice 77 viene sempre ricordato per il suo misto di creatività e violenza, e lui dice francamente non la vedo tutta questa creatività, cioè lui, grazie a 77 che deve anche, vabbè, insomma. No. No. No, certo, però è uno dei tanti, no, che in questi lunghi anni rinnega un po' quella, poteva benissimo dirlo, no, insomma, poi l'eroina è una grande fonte di creatività. Tutti i più grandi eroi, Barrocks era un grande eroinomane, era un grande creativo. Cioè, non c'è dubbio che cioè, non poteva anche cavarsi. Io non parlo del Finardi di una volta, parlo del Finardi di adesso, che racconta lui del 77 e si accoda ai suoi tranquilli paradisi artificiali da deriva mistica orientale o appiattita su ancora quello che io parlo del 68, che non capisce il 77, anche se, ripeto, quando io sto facendo una critica al 68, ma non tutti i sessantottini non hanno capito il 77, non tutti. Ad esempio tutta la questione legata a potere operaio è un'altra storia. Adesso arriverà Scalzone qui, finalmente saremo tutti ostaggio di lui, tra breve. Vabbè, insomma, forse sono andato un po' fuori tema, anche perché devo parlare del punk. Parlare del punk e di questo libro dovrei parlare. Se non ci sono domande su questo argomento qui che sto... Ho iniziato a discuterne insieme, perché appunto come Agenzia X faremo uscire con Alessandro Bertante questo pamphlet che si intitola Contro il 68, e quindi è una discussione che adesso in redazione di Agenzia X noi abbiamo giornalmente, e tutte le volte leggiamo dei giornali per vedere come si sta portando avanti questo discorso. Del punk devo parlare, non ci sono domande, repliche, dai, su questo argomento qua che io ho sciorinato, poi ritorno a parlare. Senti, del punk mi sembra interessante. Ho buttato delle cose. Questa contrapposizione che fai, sì, in un certo senso, essendo un coetaneo più o meno tuo, l'ho vissuta abbastanza anch'io questa cosa. Un momento di grossa creatività e di liberazione da questi collettivi politici di cui io mi sentivo molto oppresso. Molto, cioè non ero affascinata, ma anch'io capivo poco e mi sentivo inquadrata, mentre quando è esploso tutto quello legato al 77 ho detto cazzo, ci sono anch'io. Però il materiale di cui questo 77 si è attivato, siccome in realtà non più c'era e nulla è vuoto, però nulla nasce dal nulla, parlami un po' di questo materiale. Perché in effetti c'è un'onnivorità, che forse è quello che non capivano i sessantottini. Cioè non ci sono più le buone letture, non ci sono più le buone musiche o le musiche giuste, le letture giuste. Ci sono tante cose. Sì. Hai capito? No, sì, tante cose, non c'è dubbio. Il materiale, proprio. No, sì, tante cose, non c'è dubbio. Negli anni 60 c'era stato in effetti un arrivo di studenti proletari e sottoproletari ai licei, e Bellini proprio c'era. Quando io arrivo all'Istituto Tecnico per Chimici, sono passati diversi anni, siamo nel 76, e per me era il paese dei balocchi, ma in realtà era un paese dei balocchi che io quell'anno lì, quei due anni, perché sono stati due, 75 e 76, 76 e 77, io andavo come se fosse un'università, avevo 14 anni, mio padre, siccome faceva il chimico, e poi appunto aveva aperto questa ditta sua personale che faceva prodotti chimici, Io sono andato a fare chimica, naturalmente ero l'unico figlio maschio, però ho avuto la fortuna di entrare, che lì c'erano dei corsi tipo universitari, e io ho fatto 2 anni e mezzo, 3, fino a quando non è scoppiato il casino di Moro, con una professoressa di italiano a fare 2-3 ore di italiano al giorno con lei, e poi mi dava i compiti. Io sono andato a 14 anni già all'università, l'ambiente era straordinario per certi aspetti. Il problema è che quando c'è stata la contrapposizione, il tutto il problema grosso parte nel 1975 con la questione del compromesso storico. In realtà è lì che si spacca tutto quanto, è il PC che interviene, è lo responsabile del casino dopo. E quindi il problema grosso è che quando nella mia scuola c'è stato questo sfacelo, c'è stato questo casino di Moro, e la maggior parte della gente è tornata a essere tossica, anch'io da torno da Londra nella mia scuola sono tutti tossici quasi, perché sostanzialmente era un istituto tecnico per chimici, non è che ci andavano i figli dei ricchi, anzi nessuno proprio c'era lì, e quindi è successo un disastro. Perché dall'alto non arrivava più nessun segnale, se non quello di resa, di sconfitta, di genuflessione, come dicevo prima, rispetto ai veri poteri forti dello Stato, la polizia, che in quel momento stava succedendo anche il delirio della grande repressione, che poi sfocerà nel 79, 7 aprile. Non, tutti coloro che hanno incominciato ad additare quel 77, quella generazione, come qualcosa di simile a ciò che diceva prima D'Alema, sono oggi direttori di giornali, sono oggi i registi, sono oggi direttori di reti da sinistra alla destra, stanno in televisione, sono tra i nostri senatori e deputati, sono loro, per quanto riguarda, se vuoi, la sfera della sinistra è ancora più pesante naturalmente, perché 68 è immaginazione al potere, figuriamoci. Ecco, praticamente noi siamo stati costretti dentro una pentola, il 77, il punk, per una vita, non abbiamo potuto esprimerci in nessuna maniera. Io quando ho fatto il primo concerto alla Palazzina Liberty, perché ero vestito di nero e uscito dalla mia zona, mi hanno picchiato, costretto a sanguettare, perché credevo che fosse un fascista. Cioè non è che succedeva solo a me, Se voi leggete questo libro qua, Lumi di Punk, sono 30 testimonianze di 30 persone in giro per l'Italia, da Napoli ad Aosta, che hanno fatto più o meno la mia stessa storia. Uscivano dal quartiere, erano vestiti da nero, erano presi per fascisti. Era un casino, era un casino totale, non se ne poteva più. Il punk ha aperto la strada a una nuova forma anche di ribellione, che poi è stata in tutte le maniere mercificata, portata nella società dello spettacolo ai massimi livelli, copertine di giornali di moda, è stato utilizzato per il tipo di comunicazione, il rapporto tra generi importantissimo, insomma tantissime cose. Il punk è stato utilizzato per questo, anche perché aveva detto una grossa verità, che era ancora una volta quella del mio amico skateboardista che prima va giù e poi vuole guardare l'amico che va giù, solo esclusivamente per questo. A Milano, in Italia si era in 400 più o meno, 500, 600, dal 1981 al 1984, in quei 4 anni lì. Però queste 400 persone erano collegate con un casino di altre storie in giro per il mondo. Per cui se uno di noi riusciva a varcare le Alpi in qualche maniera, andava in un qualsiasi posto ed era riconosciuto nei punk subito, aveva casa, posto per dormire, da mangiare, eppure si sbatteva per fare le sue storie. solo a riconoscersi perché si era punk. Insomma, questa cosa qui molto underground è andata avanti e continua ad andare avanti, nonostante io non volevo crederci, perché dopo 5-6 anni che giravo con costretta sanguinaria proprio non ce la facevo più, infatti avevo parlato dei bellini e tutto quanto, ma una roba da non crederci, perché, e qui ancora racconto un po' una favola, non so se credetevi, crederci o no, insieme al modello produttivo, quindi la vera sovrastruttura della questione che cambia da modello produttivo di grande fabbrica e produce questi disastri tra il 74, come abbiamo visto dai Ramones, fino ad arrivare al 77 anche in Italia, c'è un altro sostanziale cambiamento che avviene in quegli anni, ed è la televisione. Mia sorella aveva 4 anni più di me, non guardava così tanta televisione come la guardavo io. Cioè, 4 anni di differenza sono stati importanti, perché la televisione, chi ha meno di 43-44 anni la conosce. Io 45 ero proprio in mezzo, però chi ha adesso su 48-50 è veramente un cambio stato, non è un caso, e non è un caso che un casino di gente che come me andava a farsi le canne in casermetta in giro per l'Italia guardi il programma di Renzo Arbore, che nel 78 fa vedere i Sex Pistols. Un casino di gente, forse anche te l'avevi visto quel non so, Odeon, tutto quanto fa spettacolo. 78, Michel Pergolani, anche lui, vedi, quei 400-500 persone che eravamo, siamo stati veramente abbagliati da quella cosa. E siccome io l'avevo scritto in costretta sanguinaria ed ero convinto che fosse una mia cosa addirittura originale, che mi ero diventato punk guardando la TV, quando piano piano incontravo gli amici di allora, tutto quanto mi diceva: ma guarda che anch'io, era 30, anche qui su 30 almeno una quindicina di persone di qua parla di Odeon, tutto quanto fa spettacolo. Ma è una roba incredibile. La televisione ha cambiato tanto, proprio a livello, cioè. E poi la televisione è il primo mezzo che assomiglia veramente tanto al computer, Quando finisce il virus, nel 1980, no, poco prima che finisca il virus, all'inizio del virus, noi compriamo l'impianto voce e i compagni della casa, perché noi avevamo in una casa occupata, via Correggio 18, che c'erano dei compagni e che poi dopo non siamo arrivati, abbiamo dato nuova forza a questa occupazione che stava crepando, però siamo andati molto d'accordo, è stato uno dei pochi laboratori di unione tra due generazioni così lontane, erano quasi tutti 77enni alla fine dentro la scuola, dentro via Correggio, che era l'ala creativa del movimento, no? Noi arriviamo lì, che è l'81 e ancora resiste un pochino. Però era lì, insomma, arriviamo lì, compriamo l'impianto voce. Mi ricordo che i compagni della casa, come li chiamavamo, ci dicevano che la tecnologia comunque sta sempre dalla parte del potere. Ma lui, cioè, aveva un bisogno dell'impianto per suonare. Che cazzo ce ne fregava di questa storia della tecnologia? E non è un caso che poi i punk siano tra i primi che usano il computer, che diventano cyberpunk. Perché è andata così. Perché noi quando diventiamo cyberpunk andiamo da Primo, e Primo, lui non era un 68, ci tengo a dirlo, era della generazione precedente, e infatti aveva capito il 77 molto bene, e lo si vede dal libro. E noi arriviamo in una situazione che la tecnologia non c'è in Calusca. Primo tutti i foglietti, che mi ricorderò sempre, che segnava foglietti tutto a mano. E noi facciamo Decoder, che è la rivista che in qualche modo doveva decodificare il presente, partendo da un impaginato col computer. Anche cyberpunk. La TV c'è dentro già nel DNA. Questi sono due fattori che io pongo all'attenzione di tutti quanti per il punk e in primis per il discorso sul 77 che facevo. Il cambio di modello produttivo, che è quello basilare, e dal punto di vista del linguaggio la questione grossa della televisione. È chiaro che poi, siccome il tempo va avanti, però quando è stato fondato un tipo di linguaggio ce ne vuole di tempo prima che si trovano gli antidoti, quando per trovare un metalinguaggio. E quindi finché non si troverà un metalinguaggio, uno dei più incisivi movimenti di rivolta dal basso che ha coinvolto sia la politica che il mondo culturale è indubbiamente il punk. Ecco perché ancora adesso, visto che non è stato inventato questo nuovo metalinguaggio, anche se prima di Genova in qualche modo c'eravamo vicini, il punk è ancora profondamente seguito, soprattutto nella questione dell'immaginario, da un sacco di ragazzini proletari e sottoproletari in giro per il mondo, anche in Africa. Ho andato in Madagascar, ho trovato punk africani, ormai non è tutta una roba, sono rasta africani, cioè sì. Che poi tra l'altro io parlo del punk, però parliamoci chiaro, la questione del reggae non è molto diversa. Infatti sulle strade del mondo punk e reggaetoni comunque sono sempre fratelli di strada. Ma io parlo di me che non conosco un cazzo della cultura reggae, abbiamo fatto un libro come Shake e ho dovuto andare in giro con un amico che sapeva per parlarne un po', perché io non ne conoscevo. Però leggendo quel libro che si chiama Resistenza Rasta si capisce insomma anche determinate questioni. E lì è stato proprio lo spartiacque, a mio parere lo spartiacque dell'immaginario è avvenuto nel 77, non nel 68. Non a caso in Clash era l'unico gruppo di bianchi che andava a suonare nei club sì. Di reggaetari a Brixton. Scusa, quello, Enrico mi ha detto di portare qua un video, io qui l'ho portato, anche se poi ve lo lascio perché io devo andare, che si chiama Punk 2. Attitude ed è una specie di lume di punk, è una specie di lume di punk e di Please Kill Me, fatto da Don Letts, che è un giamaicano che teneva i primi locali, il Marty e il 1-1 Club, quando andavano a suonare i primi gruppi punk a Londra. Don Letts era un giamaicano. Siccome i pezzi punk allora erano veramente pochi, c'erano i Subway Sack, ne avevano 2, i Pistons ne avevano 4, i Clash ne avevano 4, cioè i Damned 2, cioè finivano presto i dischi, allora Don Letts metteva musica reggae. Ma questo è un altro capitolo. Però è interessante che poi Don Letts è diventato un grandissimo amico di John Lydon e ha conosciuto nel corso della vita sua un sacco di punk proprio nella frontiera tra reggae e punk. Però questo parla soprattutto dell'attitudine punk, e lui la paragona al reggae soltanto a livello teorico, però parla della scena punk e intervista un casino di gente, sembra un po', vedendo questo film, una specie di Please Kill Me e i lumi di punk insieme. Infatti io appena l'ho visto ho voluto assolutamente contattarlo, e per lumi di punk c'è un'intervista a lui che racconta che cos'è l'attitudine punk, e dice secondo me delle cose molto interessanti. Questa attitudine fondamentalmente è un'attitudine che quei 400, 500, 600 persone che eravamo allora una volta ha mantenuto dentro quelli che sono sopravvissuti, anche perché abbiamo avuto di recente una tragica morte di uno dei protagonisti di Lumi di Panche, che è il professor Bad Trip, per quei pochi che hanno resistito. Comunque questa tendenza a rapportarsi con gli altri e quindi anche in politica in maniera orizzontale, cioè Lumi di Punk in questo senso. Lumi di Punk era la spinta fortemente libertaria che ha avuto il punk, profondamente. Si suonava non perché c'era uno che era più bravo degli altri, no? Si suonava, era proprio quello, non è che Didi fosse meglio di Johnny, erano due cani lo stesso. E quindi c'era la prima questione, era rapportarsi in maniera di gruppo, e poi i collettivi e tutta l'attitudine ha molto a che fare con una spirito libertario e si denota in tutto per tutto, anche nei più avanzati diramazioni di cui lui parlava prima, il dark piuttosto che lo skinhead oppure il post-punk. Il post-punk, adesso è uscito un libro ultimamente per ISBN che racconta questa questione del post-punk, però in tutte le dinamazioni che ha avuto da allora in avanti, proprio con questa tendenza alla ricerca, perché ormai il rock era stato sgozzato dai Ramones negli Stati Uniti, dai Pistols in Inghilterra e dagli indiani metropolitani qua, io vorrei aggiungere, c'era questa tendenza alla ricerca che non voleva dire mettere su un'organizzazione, quindi non c'era la necessità di avere delle gerarchie interne. I gruppi più grossi, lui citava, erano proprio punk anarchici, che quasi erano un collettivo politico, che però si dichiaravano anarchici, erano più di un gruppo ma erano anarchici, e purtroppo molte volte io sono accusato di voler politicizzare per forza il punk, però in realtà è stato questo: il gruppo musicale era la prima forma di far politica, perché c'era il 68 che premeva sul 77 che era finito, il 77 che ancora non si capiva più niente, si stava cambiando tutto quanto e noi non potevamo permetterci di fare politica, tra virgolette, quindi siamo messi a fare musica. Fare musica, che poi dopo è esploso tutto la questione legata alla guerra delle informazioni e tutto quanto, ma sulla parete del virus c'era la scritta proprio: quando non ti rimane nessuno spazio per esprimerti, era così, la musica, puoi farlo, puoi esprimere il tuo dissenso, una frase del genere, che era dei Wretched, ed era scritta bella in grosso. Cioè, quando non c'era più nessuno spazio, la musica te lo dava questo spazio. E dappertutto è successo così. Anche questo libro post-punk, che io ho amato e odiato nello stesso tempo, che lui sostiene che il vero innovazione, un giornalista musicale, lui sostiene che la musica è stata innovata non tanto dal punk, ma quello che è venuto dopo, non tanto dai Sex Pistols in particolare, ma dai Public Image, che era la band dove suonava Johnny Rotten dopo lo scioglimento dei Pistols. È abbastanza interessante questa sua tesi, ma sta di fatto che il punk aveva fatto ad esempio anche le fanzine, cioè non era stato soltanto un fenomeno musicale comunque. E poi soprattutto, se parliamo anche dei skinhead o dei dark e di tutto quanto altro, avevano un look. Questo look era una rappresentazione anche di loro se stessi. Iniziano i tatuaggi in quel periodo. Prima dei punk o degli skinhead, i tatuaggi non c'era quasi nessuno, nemmeno gli hippie c'erano tanti tatuaggi, qualcuno, rari, cazzo, lì tutti. Nel 1985, quando il virus viene, 84, quando il virus viene sgomberato, entra il Leoncavallo, e questa cosa io non me la ricordavo, me l'ha ricordato Atomo, che sarà uno dei prossimi intervistati, nei Lumi di Punk 2 ci sarà Atomo Tinelli, che poi è diventato Rifondazione Comunista, vabbè tutto quanto, però a qualche incontro di Lumi di Punk, in quanto era stato punk anche lui, l'avevamo invitato, ha raccontato questa storia qua, che nel 1984, quando il virus è stato sgomberato, noi dovevamo fare qualcosa, l'unico altro centro sociale a Milano era il Leoncavallo, con noi avevamo orari e rapporti. Non ci riconoscevamo, non capivamo che cosa c'era dentro la Valtera Lasia, c'era dentro, cioè poi noi eravamo punk, figurati, un casino. Quando siamo arrivati noi dal corteo dopo lo sgombero di Correggio e volevamo far suonare i Wretched, siamo entrati in un grande salone dove era tutto bianco, bello, una striscia tipo questa qui, rosa, mi ricordo, alla fine del concerto era riempito di scritte. È stata una bomba proprio. Non si può mettere il punk soltanto sul fenomeno musicale. È vero che ha rotto magari di più, ha innovato di più, però è vero che la scintilla era venuta da dietro per quanto riguarda la musica, ma è tutto il resto. cos'era successo? Ecco perché quando mi dicono ma come mai c'è sempre la tua voglia di politicizzare il punk, ma perché ormai in questa, non so, io ormai tutto quello che faccio mi sembra che sia politica. Cioè, come cazzo andate a lavorare voi? Per lavorare bisogna saper far politica al giorno d'oggi. Una volta no, perché bene o male c'erano i contratti, c'erano le cose un pochino. Adesso è un disastro. Quindi, cioè, non capisco cosa voglia dire politicizzare il punk. Non lo capisco proprio. E soprattutto non lo capisco in questa fase, dove la politica non si sa nemmeno più che cosa sia, anche nelle parti più radicali del movimento. Io vorrei raccontarvi la mia esperienza adesso anche nella nuova casa editrice Agenzia X, per sono arrivato a questo punto anche per raccontare un attimo quello che credo stia succedendo un po', almeno la mia persona, quello che mi gira un po' per la testa, è il progetto che ho di questa grossa agenzia, insomma. Io vengo dall'esperienza della Shake ventennale, l'anno scorso me ne sono uscito, meglio, ce ne siamo tutti andati e abbiamo fondato Agenzia X, anche se la Shake c'è ancora, perché è stata presa dalla vecchia gestione e hanno chiamato altri soci e il progetto più o meno seguirà quel corso che era prima la Shake. E mentre invece io non ci stavo più dentro io e tutti la redazione non ci stavamo più dentro a portare avanti un progetto che era così tanto identitario. Il problema era nel punk, e un giornalista, mi ricordo ai tempi, che si chiamava Augusto Pozzoli, del Corriere della Sera aveva individuato il nostro punto debole. Eravamo come in un fortino, baionette fuori, noi questa zona liberata, le famose TAZ che poi conosciamo tutti, fino ad arrivare alla cultura rave, dell'illegal rave. Non sto qui a raccontare tutto. Comunque le TAZ erano più o meno questa cosa qua. Agenzia X non è questa cosa. Invece Agenzia X, infatti, abbiamo voluto chiamare X come Malcolm X perché non è identitaria e si tenta, infatti abbiamo aperto un piccolo locale sulla strada e siamo nella merda perché è una specie di porto di mare, però penso, e noi pensiamo, il progetto di Agenzia X è proprio questo, che la battaglia anche per almeno lavorare su un immaginario radicale, almeno un piccolo segmento radioattivo di radicalità, almeno nell'immaginario, serve un laboratorio aperto e disponibile a progetti di chiunque li voglia fare. La questione è legata parecchio al fatto del Creative Commons, tutti i nostri libri sono Creative Commons, cioè l'editore non vuole prendersi l'incarico di avere diritti, è scaricabile sul nostro sito tutto quanto, tutti i libri nostri. E lì il punto. La Shake è una casa editrice di movimento, che però in questa fase, se continuava ad esempio a mettere la C sul colofono, oppure continuava a ragionare in termini proprio di identità forte di gruppo, rischiava di diventare una casa editrice come tante altre, piccole, grandi, medie, più o meno la stessa cosa alla fine. Struttura piramidale, la stessa cosa, perché ormai i ruoli si cristallizzano a un certo punto e le gerarchie per forza si instaurano. E allora niente, non c'è più riunione editoriali, non c'è più niente, è riunione continua, anche se vogliamo tentare di trasferirla addirittura sul sito, questa cosa qua, perché abbiamo individuato nella casa editrice l'unico elemento di creazione di potere, ma anche elemento di grande come si può dire, che può influenzare anche le scelte individuali delle persone, è la questione della scelta dei titoli da pubblicare. E quindi l'assemblea è aperta sempre, continua, sulla redazione, ognuno viene a proporci un libro, si discute sempre, si discute tantissimo e non si riesce mai a realizzare un cazzo, purtroppo, anche perché siamo tantissimi, però sta diventando questa cosa qua una specie di laboratorio che sforna idee a più non posso. Noi stiamo facendo adesso qualcosa come 4, 5, 6, forse 7 incontri alla settimana del genere, siamo stravolti e l'Umidi Punk va da solo per i cavoli suoi, perché queste 30 persone che hanno partecipato nei loro posti fanno delle iniziative simili, parlando di cosa il punk e cosa c'è intorno al punk, in particolare in questo momento del 77, e sono sempre più o meno pieni di gente. Abbiamo una struttura che non si limita a Milano, ma abbiamo 3 persone che lavorano anche a Pisa e altre 2 che lavorano a Roma, e una e forse un'altra che vado la settimana prossima a Napoli. E questa situazione, sì, con queste, diciamo, piccole 3 parole che la X richiama, idee per la condivisione dei saperi, agiscono sulla questione scrittura. Quindi giornalisti, romanzieri, saggisti, tentando di trovare degli agganci con le realtà locali che sono simili a quello che abbiamo aperto noi in via Pietro Custodio oggi a Milano, da un anno a Milano. Ecco, 2 parole piccole sul libro. Questo libro è un racconto, sono 30 racconti orali. 30 racconti orali. 30 racconti orali che raccontano come raccontano, cioè sono dei interventi, sostanzialmente interventi pubblici fatti da queste persone, registrati, sbobinati, poi rimandati all'autore, l'autore l'ha rimessi a posto, poi la redazione infine l'ha messa a posto ancora un'altra volta, questo tecnicamente. E quindi sono è un sbobinato elaborato, ecco, è la parola giusta, è uno sbobinato elaborato. E sono state fatte 3 domande a tutti i 30 protagonisti, e sono: uno, come ha incontrato il punk; un altro, qual è stato il momento, l'apogeo, il momento più bello per te per il punk, e cosa ha influenzato il punk nelle scelte della tua vita. 3 domande semplici, ognuno andava per i cavoli suoi. Sono state registrate queste testimonianze durante la presentazione della mostra BTP Autonomy Punk, che erano appunto 126 pannelli illustrati sulla storia delle controculture mondiali, e per ogni volta che la mostra veniva esposta c'erano dibattiti sul beat, gli hippie sugli anni 70 e sul punk. Quelli del punk erano particolarmente seguiti, c'era tantissima gente, insomma. Allora ho cominciato a registrarli, perché ancora, infatti, io non è che avessi ancora voglia di parlare di punk sempre tutte le volte, però visto che c'era questa cosa qui, ho cominciato a registrarli registrandole me ne ero reso conto che le cose erano bellissime, perché questi 30 protagonisti sono ancora 30 agitatori culturali, ognuno nella propria zona si sbatte come un maledetto, con le stesse dinamiche che aveva quando avevano gli anni 80. Cioè, nonostante abbiamo 45 anni, siamo rimasti così, almeno questi 30 personaggi. Anche se sono 27 in realtà, perché uno è Zulu, dei 99 posse, che aveva partecipato anche lui a una puntata di Lumi di Punk durante la mostra, che però racconta una storia che mi serviva a me per tentare anche di capire ciò che è avvenuto dopo il punk, soprattutto nel movimento hip hop. Appunto, Zulu racconta a Luca che era un punk lui prima che scoppiasse la Pantera e poi dopo iniziasse a suonare hip hop. Poi c'è un ragazzo che anche lui ha 40 anni, ma si può dire che non è proprio partito in quel periodo, che è Flacco dei Pancreas, ma anche lui serviva all'economia del libro per far sì di dare un tono di continuità, che questo ha 40 anni adesso, però incontra il punk nel 1989, quando ormai sapeva di muffa il punk, no? A quel periodo nessuno se lo cagava, quando ha iniziato a scrivere nel 1990-91 Costretti a sanguinare, in quel momento proprio c'era la Pantera, c'era l'hip hop, il punk, cioè c'era un po' appena i Nirvana lontani, che però erano già un'altra cosa, non si parlava più quasi di punk. Però invece c'era una scena underground che stava andando molto forte, allora mi serviva Flacco per far capire che parte quello, anche che dai là a Bosti, vabbè, insomma, sono tanti fili questo libro. E poi c'è anche un ragazzo giovane, Andrea di Tradate, che aveva fatto un intervento una volta e mi sembrava abbastanza interessante e riassuntivo di tutti gli interventi dei giovani che ho incontrato sempre durante i dibattiti. Tutti gli altri però sono persone che ancora adesso sono attivi, tantissimo, in ogni loro diramazione professionale o vocazione artistica che hanno avuto, dal primo all'ultimo. L'ultimo, che è il professor Bad Trip, come sappiamo era un grande pittore, anche DJ, che faceva un sacco di serate, era attivissimo anche lui. Purtroppo è morto, ne ha avuto un attacco di cuore a novembre, lo scorso, 3 mesi fa, e ci ha lasciato la sua testimonianza ormai terminale qui in questo libro. Beh, io ho finito, ho dato 4 parole sul libro, però adesso spero che ci siano delle domande che...